GR Europa. The euro area is facing challenging times and 2013 will turn out to be a crucial year. L'area euro affronta tempi difficili, il 2013 sarà un anno cruciale. Questo è Jeroen Dijsselbloem, 46 anni, ministro olandese delle finanze, eletto nuovo presidente dell'Eurogruppo. La Spagna, l'unica a votare contro. Dijsselbloem sostituirà Jean-Claude Juncker dopo 7 anni alla guida dell'organismo che riunisce i ministri dell'economia e delle finanze degli stati della zona euro e che proprio oggi ha dato il via libera alla cooperazione rafforzata sulla Tobin Tax. Riforme strutturali, disciplina fiscale, Dijsselbloem ha espresso la volontà di andare oltre la semplice gestione della crisi per concentrarsi sulle politiche di lungo periodo e per rafforzare la fiducia nell'Eurozona. Nella conferenza stampa che sentite si è impegnato per la tutela del modello sociale europeo di cui ha detto dobbiamo andare fieri. Un paese come l'Italia, impegnato nella lotta al terrorismo e per lo sviluppo del Sahel, non può non partecipare anche se limitatamente alle operazioni in corso in Mali, soprattutto attraverso la logistica. Così oggi il ministro degli esteri Giulio Terzi davanti alla Commissione Riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Tutta questa operazione si svolge in un quadro chiaro dal punto di vista internazionale, vorrei dire blindato. Oramai vi è piena consapevolezza di quanto fondamentale sia riprendere, consentire a Ituare una collocazione diversa nella società maliana e quanto ignorare questo problema o perlomeno non averlo gestito appropriatamente sia stata anche una delle cause del precipitare degli eventi. La Commissione UE ha intanto deciso di assegnare altri 20 milioni di euro di aiuti al Mali per far fronte alla crescente crisi umanitaria. E ancora, l'UE sostiene gli sforzi dell'Italia affinché gli studenti Erasmus non siano discriminati e possano votare. Soprattutto per Bruxelles non deve essere posto nessun ostacolo alla mobilità di chi si trova all'estero. Sentiamo Letizia Gambini dello European Youth Forum. Il problema degli studenti Erasmus è che la registrazione all'AIRE, il registro degli italiani all'estero, è possibile solo dopo i 12 mesi di permanenza e la maggior parte degli scambi Erasmus, se non tutti, sono dai 6 ai 10 mesi. Quindi invece per gli altri paesi europei non esiste questo limite? In Francia, per esempio, c'è il voto per procura, cioè in altri paesi, come per esempio il Portogallo, la legislazione per il voto all'estero richiede semplicemente una registrazione all'ambasciata. Ma i giovani europei votano? I giovani italiani sul voto in Europa sono nella media, i giovani in Europa non sono molto stimolati a votare per le elezioni, perché la politica non li rispecchia, non parla a loro. L'intervista era di Valentina Furlanetto. Infine, il Consiglio europeo della ricerca assegnerà 680 milioni di euro a 302 ricercatori di fama in 24 paesi europei nell'ambito dell'ultimo bando per l'assegnazione di sovvenzioni ai ricercatori esperti. Tra i premiati, 15 sono ospitati in enti di ricerca del nostro paese, mentre sono complessivamente 19 quelli di nazionalità italiana. Bene, con questo è tutto. GR Europa torna domani alla stessa ora. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.